Capitolo 14. Windy Willows, Spooks Lane, per l'ultima volta, 27 giugno. Carissimo, sono giunta a un'altra svolta della strada. Ti ho scritto un mucchio di lettere da questa torretta negli ultimi 3 anni. Ora non te ne scriverò più per molto, molto tempo. Già, perché tra poco non avremo più bisogno di lettere. Tra poche settimane saremo uniti per sempre, saremo insieme, pensa! Essere insieme, parlare, camminare, mangiare, sognare, fare progetti, condividere i bei momenti, rendere una vera casa, la casa dei nostri sogni, la nostra casa. Oh, Gilbert, non ha un suono di mistica bellezza? Mi sono figurata case dei sogni per tutta la vita, e ora una sola diventerà realtà, e se vuoi sapere con chi voglio dividere la casa dei miei sogni, beh, te lo dirò l'anno prossimo alle 4. 3 anni sembravano un'eternità all'inizio, Gilbert. Invece sono passati in un soffio. Sono stati anni felici, beh, tranne quei primi mesi con i Pringle. Ma dopo, la vita ha preso a scorrere come un placido fiume dorato. E l'antica ostilità con i Pringle sembra un sogno lontano. Ora mi apprezzano per quello che sono e hanno dimenticato di avermi odiata. Cara Pringle, una dei tanti figli della vedova Pringle, ieri mi ha portato un mazzo di rose, legato da un nastro di carta con la scritta «All'insegnante più adorabile del mondo». Pensa, una Pringle arrivara tanto. Jen è disperata perché parto. Terrò d'occhio con interesse la carriera di Jen. Ha un'intelligenza vivace e un carattere imprevedibile. Ma una cosa è certa, avrà un'esistenza fuori dal comune. Non per niente assomiglia tanto a Becky Sharp. Lewis Allen frequenterà il McGill. Sophie Sinclair andrà alla Queen's Academy, poi insegnerà per avere il denaro necessario a iscriversi alla scuola di arti teatrali di Kingsport. Myra Pringle farà il debutto in autunno. È tanto carina che non importa se non ha la più pallida idea di che cosa sia un participio passato. E non c'è più la piccola vicina alla porta coperta di rampicanti. La piccola Elizabeth è andata via per sempre da quella casa senza sole. È andata nel suo domani. Se dovessi restare a Summerside, la sua mancanza mi strazierebbe. Ma stando così le cose, sono contenta. Pierce Grayson l'ha portata via con sé. Non tornerà più a Parigi, ma si stabilirà a Boston. Al momento dei saluti, Elizabeth è scoppiata in un pianto dirotto, ma è tanto felice con il padre che, ne sono certa, quelle lacrime si asciugheranno presto. La signora Campbell e la donna non hanno visto di buon occhio la faccenda e hanno dato a me tutta la colpa. Ah, l'accetto volentieri e senza rimorsi. Non le mancava niente qui, ha detto con sussiego la signora Campbell. Però nessuno ha mai rivolto a lei una parola affettuosa, ho pensato io, senza dirlo. Credo che d'ora in poi sarò sempre Betty, cara signorina Shirley. Sono state le ultime parole di Elizabeth. Tranne che quando sentirò la sua mancanza, ha aggiunto voltandosi. E allora sarò Lizzie. Oh, guai, non dovrai mai essere Lizzie. Mai, qualunque cosa accada, le ho detto. Ci siamo gettate baci fin quando siamo riuscite a vederci e io sono salita nella torretta con le lacrime agli occhi. È sempre stata tanto carina con me, povero tesoro. Mi è sempre parsa un'arpa eolica, sensibile al minimo soffio di affetto che le alitava attorno. È stato un vero privilegio esserle amica. Spero che Pierce Grayson si renda conto della figlia che ha, ma credo che ne sia consapevole. Mi è sembrato grato e pentito. Non mi rendevo conto che non era più una bambinetta piccola, mi ha detto, né che vivesse in un ambiente tanto arido. Ancora grazie mille per tutto quello che ha fatto per lei. Ho fatto incorniciare la nostra carta geografica del paese delle fate e l'ho data alla piccola Elizabeth come dono da Dio. Mi dispiace lasciare Windy Willows. Certo, sono un po' stanca di vivere in modo provvisorio, ma adoravo stare qui. Mi piaceva tanto l'aria fresca del mattino alla finestra. Mi piaceva il letto dove salivo, letteralmente, tutte le sere. Mi piaceva il cuscino azzurro a forma di ciambella. Mi piacevano tutti i venti che soffiavano qui intorno. Credo che non avrò mai più tanta confidenza con i venti quanta ne ho avuta qui. E chissà se mi capiterà ancora una camera da cui possa assistere a levare al tramontare del sole. Ho chiuso il capitolo di Windy Willows e degli anni legati a questa casa e ho tenuto fede alla parola data. Non ho mai rivelato il nascondiglio di zia Ceti a zia Kate, né il segreto reciproco del siero di latte. Credo che a loro dispiaccia vedermi andar via e la cosa mi fa piacere. Sarebbe terribile pensare che fossero contente di vedermene andare o che non sentissero la mia mancanza. È ormai una settimana che Rebecca Dew prepara i miei piatti preferiti. Ha persino sacrificato 10 uova per ben 2 volte per fare il pane degli angeli e mette in tavola i piatti di porcellana delle feste. E i dolci occhi castani di zia Cetti si riempiono di lacrime solo a sentir nominare la mia partenza. Persino Dusty Miller sembra guardarmi con rimprovero, accosciato sulle zampe posteriori. Ho ricevuto una lunga lettera da Catherine la settimana scorsa. È bravissima a scrivere lettere. Ha trovato lavoro come segretaria privata di un deputato Globetrotter. Globetrotter non è un'espressione piena di fascino. Pensa, lui dice andiamo in Egitto come noi diremmo andiamo a Charlottetown. E ci va. È proprio la vita che fa per Catherine. Lei insiste nell'attribuire a me il merito del suo cambiamento di mentalità e di ambizioni. Vorrei saperti dire che cosa hai significato per me, mi ha scritto. Beh, in effetti ho contribuito. E all'inizio non è stato facile. C'era sempre l'intenzione di ferire nelle sue parole e ascoltava le mie proposte riguardanti l'attività scolastica con l'aria di chi è costretto ad assecondare un pazzo. Però ora tutto è dimenticato. Era la conseguenza del suo segreto rancore verso la vita. Ultimamente sono stata invitata a cena un po' da tutti, persino da Pauline Gibson. La vecchia signora Gibson è morta qualche mese fa, perciò Pauline ha osato compiere questo passo. E sono stata a Tom Gallon House per un'altra cena con la signorina Minerva, accompagnata dal relativo monologo. Ma mi sono goduta un mondo il pasto eccellente offerto dalla signorina Minerva e lei si è goduta un mondo l'esibizione di qualche altra tragedia. Non riesce a nascondere la sua compassione per chi non si chiama Tom Gallon. Ma mi ha fatto parecchi complimenti e mi ha donato un amore di anello con un'acqua marina, una combinazione lunare di azzurro e verde che le aveva dato il padre per il 18° compleanno. Quando ero giovane e bella, mia cara, e bella davvero, ora credo di poterlo dire. Per fortuna è appartenuto alla signorina Minerva e non ad Annabella, non sarei mai riuscita a portarlo altrimenti. È molto bello, le gemme marine hanno un fascino misterioso. Tom Gallon House è senz'altro una magnificenza, specialmente ora che il parco è un'esplosione di foglie e fiori, ma non cederei la futura casa dei miei sogni per Tom Gallon House, con parco e fantasma per giunta. Certo che un fantasma darebbe un tono di aristocratica distinzione. L'unico difetto di Spooks Lane è la mancanza di spettri. Ieri sera ho fatto l'ultima passeggiata al vecchio cimitero. L'ho girato tutto chiedendomi se infine Stephen Pringle avesse chiuso gli occhi e se Herbert Pringle continuasse ogni tanto a farsi una risata nella tomba. Questa sera darò l'addio al re della tempesta, con la vetta incendiata dalla luce al tramonto e alla mia valletta serpeggiante, piena di ombre. Sono un po' stanca dopo un mese di esami, saluti e ultime cose. Al mio ritorno a Green Gables me ne starò oziosa per una settimana. Non voglio fare altro che correre libera nell'incanto del verde estivo. E al tramonto mi fermerò a sognare alla bolla della Driade. Veleggerò sul lago delle acque scintillanti, in una scialuppa ricavata da un raggio di luna, o sulla barca del signor Barry, se le scialuppe di raggi di luna non fossero disponibili. E raccoglierò astrici selvatici e campanule nel bosco stregato. Troverò distese di fragole di bosco nel pascolo alto del signor Harrison e mi unirò alla danza delle lucciole nel viale degli innamorati. E visiterò il giardino dimenticato di Esther Gray e resterò seduta sulla soglia di casa sotto un manto di stelle e ascolterò la voce del mare addormentato. E alla fine di quella settimana a casa ci sarai tu e io. Non avrò altro da desiderare. Capitolo 15. Quando l'indomani giunse il momento del congedo di Anne da Windy Willows, Rebecca Dew era scomparsa. Ma zia Kate, tutta seria, porse ad Anne una lettera. Cara signorina Shirley, affido a questo scritto il mio addio perché non riuscirei a farlo a voce. Per 3 anni lei ha soggiornato sotto il nostro tetto. Lei, fortunata detentrice di un carattere allegro e di una predisposizione naturale alla gioia giovanile, non si è mai abbassata ai vani piaceri della folla mutevole e capricciosa, ha sempre esternato in ogni occasione con tutti, e specialmente con colei che scrive queste righe, una finissima sensibilità. Ha sempre mostrato un estremo rispetto per i miei sentimenti e il mio animo è gravato dalla tristezza al pensiero della sua prossima partenza. Ma non dobbiamo dolerci di ciò che la provvidenza ci ha destinato. Sarà rimpianta da tutti coloro che qui a Summerside hanno avuto il privilegio di conoscerla e potrà sempre contare sulla deferenza di un'anima fedele, seppur umile. Io pregherò sempre che lei abbia felicità su questa terra e gaudio eterno nella vita immortale. Corre voce che presto lei non si chiamerà più signorina Shirley, poiché sarà legata da un'unione d'anime al suo prescelto, il quale, alquanto mi si dice, è un giovane di qualità eccezionali. La scrivente, fornita di ben misere attrattive personali e discretamente avanti con gli anni, anche se si aspetta di viverne ancora parecchi, non si è mai permessa di nutrire aspirazioni matrimoniali, ma non vuole negarsi il piacere di interessarsi agli sponsali delle persone care. Mi sia consentito, perciò, esprimerle gli auguri di una vita matrimoniale felice, fonte di gioia perenne ed inesauribile. Però non bisogna aspettarsi troppo dagli uomini, eh? La mia stima e, se mi consente, il mio affetto per lei non verranno mai meno. E di quando in quando, se non avrà niente di meglio da fare, la pregherei di ricordare la sua umilissima serva Rebecca, Dio. P.S. Dio la benedica. Quando Anna ripiegò la lettera aveva gli occhi umidi. Era decisamente portata a credere che Rebecca Dew avesse attinto la maggior parte delle frasi al suo prediletto libro del Galateo, ma ciò non voleva dire che non fossero sincere, e il poscritto era senz'altro sgorgato dal cuore dell'affezionata Rebecca Dew. Dite alla cara Rebecca Dew che non la dimenticherò e che verrò a trovarvi ogni estate. I ricordi di questi 3 anni, niente potrà cancellarli, disse zia Cetti tra i singhiozzi. Niente di niente, sottolineò con enfasi zia Kate. Ma l'ultimo messaggio per Ann, da Windy Willows, fu il forsennato sventolio di un grande asciugamano bianco alla finestra della torretta. Era l'addio di Rebecca Dew. Fine.